Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta oggi da Trento, piazza Mario Pasi dietro al Duomo. Inizia infatti in questi momenti la settima edizione del Festival dell'Economia di Trento. Festival dell'Economia dedicato, ne parleremo tra pochissimo, a un tema che potrebbe apparire più freddo e meno di attualità, come il passaggio generazionale. Nello specifico, in realtà, il titolo di questa edizione è Cicli di vita e rapporti fra generazioni. Numerosi premi Nobel che si alterneranno in questi giorni a Trento, cito solo Christopher Pissarides e Dale Mortensen, che hanno ottenuto il Nobel all'economia nel 2010, e Eric Maskin, che invece ottenne il Nobel nel 2007. Domani arriverà anche quello che è considerato il più grande finanziere, oltre che speculatore, al mondo, George Soros, presidente della Soros Fund Management, che interverrà sabato, e vi saranno poi anche gli interventi del ministro allo sviluppo economico Corrado Passera, del ministro al lavoro Elsa Fornero, di quello all'ambiente Corrado Clini, e anche il segretario della CGIL Susanna Camusso. Il ministro Fornero dovrebbe essere nostro ospite dalle 18 in poi. Oggi infatti al Senato è passato il DDL lavoro, e quindi gireremo a lei anche alcune delle obiezioni che abbiamo avuto in questi giorni, sia su come è stata gestita la vicenda degli esodati, sia su quello che riguarda sempre in tema di mercato del lavoro, quello che riguarda complessivamente la riforma oggi approvata dal Senato. In apertura parleremo dei temi di Trento, ma parleremo anche e soprattutto della relazione annuale, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Oggi, come i nostri GR vi hanno già ricordato, un appello che alcuni definiscono un'ultima chiamata all'Europa, quella arrivata da una relazione da altri osservatori definita dal volto umano, perché Visco si è occupato anche della fascia più debole della popolazione e di chi è stato colpito dal terremoto. Dicevo Ignazio Visco, ma anche dichiarazione del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Io andrei rapidamente con Ignazio Visco e del governatore della BCE Mario Draghi, chiaramente mi fanno segno regia, è ovvio. Dicevo, oggi qualche notizia in breve la diamo senza nemmeno lo stacco, perché vorrei partire subito a parlare del tema con uno dei curatori del Festival dell'Economia. Dicevo, le borse meno 0,70%, c'è un allarme lanciato da Fitch sulla Grecia e sulle possibilità che la Grecia esca definitivamente dall'euro, che ha raffreddato tutti i listini. Fitch è una delle tre agenzie di rating, meno 0,70 Milano. Per quello che riguarda Parigi, meno 0,80, Francoforte meno 0,90%, Madrid perde l'1,20% in questo momento. Per quello che riguarda l'America, a New York vedremo tra brevissimo la quotazione. Faccio solo notare che l'euro si mantiene a quota 1,23,53, quindi sotto quota 1,24. L'America, dicevamo, sul Dow Jones meno 0,70, sul Nasdaq meno 1%. Bene Snam Rete Gas, dopo la conferma che il 30% è passato alla Cassa Depositi e Prestiti, più 3,90%, Popolare Emilia Romagna più 2,20%, Impregilo più 1,30%, Fiat più 0,80%, Monte dei Paschi mezzo punto percentuale di rialzo ed Eni lo 0,13%. Chi perde invece? Fiat Auto è la peggiore, meno 4,30%, assieme a Daniel Green Power, meno 4,30% anch'esso. A2A perde il 4,20%, Mediaset il 4%, Tenaris il 3,70%, il Banco Popolare perde il 2,70%, come Buzzi, Unicem e Azimut. Il 2,5% lo perde Saipem, il 2% Pirelli, ma anche Exor, l'1,70% e il calo di Mediolanum. Dicevamo delle notizie che poi commenteremo nel corso anche dell'approfondimento sulla relazione del governatore. In America, rivisto a ribasso il PIL nei primi tre mesi dell'anno, più 1,9% contro un 2,2% iniziale. L'intervista oggi, devo dire, condivido tutto quello che dice l'ex cancelliere Gerhard Schröder oggi sul Corriere della Sera. Dice: insensate le imposizioni tedesche alla Grecia. Io vi invito a leggere l'articolo, l'intervista, anche perché Schröder dice una cosa banalissima che ripetiamo da tempo, e cioè non si può chiedere alla Grecia di cambiare tutto, di non essere più greci dopo che li hai lasciati fare per anni in pochissimi mesi. È un'operazione insensata sia da un punto di vista politico che da un punto di vista economico, ci sarà per carità anche così la dialettica politica, visto che Schröder è dell'SPD e la Merkel della CDU, ma attenzione. In Germania intanto la Volkswagen ha aumentato i salari del 4,3% a partire dal 1 giugno e Mario Draghi, intervenendo oggi a Bruxelles, ha detto: attenzione, bisogna limitare il più possibile il rischio contagio e sostenere la crescita. Sbagliato sottovalutare il problema della banca spagnola Bankia, ma non chiedete alla Banca Centrale Europea di riempire il vuoto lasciato dai governi. 349-238-6666 per i vostri sms. Ascolteremo anche alcune delle voci che arrivano dall'Emilia, una su tutte, prima però di partire con il nostro ospite, ed è quella, visto che le zone industriali sono inaccessibili fino a nuove verifiche e a questo punto sono 3.500 le imprese ferme, un punto percentuale di PIL il danno in una delle zone più ricche di distretti in questo paese, la nostra Valentina Fornetto ha raccolto e intervistato poco fa il direttore di Confindustria Modena, Giovanni Messori. Guardi, io sono qui a lavorare ma ho paura, quindi capisco, bisogna elaborarla questa paura. Noi abbiamo detto a tutti gli imprenditori di essere massimamente prudenti, di assecondare i dipendenti che hanno paura, dall'altro è l'occasione per fare anche delle verifiche approfondite anche nelle zone non sismiche. Nessuno è entrato senza aver avuto l'agibilità. Infatti dei morti ci sono in capannoni dove l'agibilità era stata data dalla protezione civile, in altri da professionisti autonomi, strutturisti, ingegneri, quant'altro. È chiaro che adesso la prudenza sarà, se prima era 100, adesso sarà 1000. Qual è invece, dal punto di vista dei danni per l'economia della zona, il bilancio che lei in questo momento si sente di fare? Guardi, io concordo abbastanza con qua, col titolo del Sole 24 Ore. La cosa sta, come dire, danneggiando tutta l'economia locale, anche nelle zone non colpite, evidentemente. Fornitori sinistrati che non possono più far fronte alle loro commesse, di conseguenza altre aziende che sono costrette a mettere i loro dipendenti in cassa integrazione. Così il presidente della Confindustria di Modena, banalmente e molto modestamente ci siamo anche noi concentrati su questo aspetto in un commento questa mattina, ieri in Focus Economia. Attenzione per favore, con una certa forma di luddismo peloso, di anticapitalismo peloso, a dare la colpa agli imprenditori che erano tornati in fabbrica nei distretti che sono tutti collegati in rete. Come ricordava adesso il presidente della Confindustria di Modena, si blocca un distretto che è fatto di fornitori e di clienti, si bloccano anche distretti di aree non terremotate. L'Emilia Romagna, come il Veneto, come la Lombardia, come la dorsale adriatica, hanno distretti in filiera, per cui tu blocchi una parte, si blocca il resto. Era immaginabile che, visto che la protezione civile aveva dato l'ok, tornassero al lavoro. Come si fa a criticare gli imprenditori perché tornano al lavoro? È una cosa che veramente non capisco. E attenzione anche perché poi ascolteremo un'intervista sul biomedicale. Guardate che cosa è successo proprio al settore biomedicale, bisognerà trasferire interi impianti, altrimenti l'Italia, nel caso specifico Mirandola, esce da quel settore perché i clienti si rivolgeranno a altre aziende, magari all'est Europa, e quindi sarà una botta ulteriore. A me fa sempre impressione quando vedo certe anime belle che mai sono state in queste realtà, evidentemente che poco conoscono di cos'è l'Italia dei distretti di provincia, dire operai obbligati ad tornare al lavoro. Ma con la crisi che c'è, è ovvio che se ti dicono che il capannone è agibile, torni al lavoro per ripartire subito con la produzione. Io non so dove vivono queste anime belle, ma le invito tutte a girare per i luoghi di Vicenza, dell'Emilia in questo momento, ma anche in altri luoghi di questo paese, per capire come funziona la piccola impresa in questo paese. Smettere di raccontare una marea di cavolate solo perché così si ha un'idea ancora del padrone delle ferriere. Vale anche, vale anche per i sindacati, vale anche per la segretaria CGIL Camusso, che poteva evitare una volta tanto di dare sempre questa immagine della CGIL come anti-impresa, anche se poi dice che non è così. Camusso, ogni tanto stare zitti conviene, no? Vabbè, noi parliamo invece del tema di questa settima edizione del Festival dell'Economia a Trento. Il tema è cicli di vita e rapporti fra le generazioni. È nostro ospite uno degli organizzatori, il coordinatore da sempre del Festival dell'Economia, nonché professore di economia alla Bocconi a Milano, ideatore del sito lavoce.info, professor Tito Boeri, buonasera. Buonasera. Avete scelto un tema, cicli di vita e rapporti fra generazioni, fondamentale, importantissimo, che alcuni potrebbero definire un po' o freddo o sempre verde, nel senso che uno poteva immaginarsi che quest'anno il Festival dell'Economia si sarebbe buttato a pie pari dentro la tenuta dell'euro, Europa sì, Europa no. Oggi abbiamo visto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sostanzialmente dire: attenzione, qui c'è l'ultima chiamata per l'Europa. Voi avete scelto un tema invece che ha un respiro molto più ampio, come mai? Beh, noi sempre il festival diamo un titolo che è legato alla ricerca, perché noi vogliamo portare qui i frutti della ricerca economica d'avanguardia. È un tema peraltro di grandissima attualità, perché se guardiamo anche alle conseguenze della crisi, le conseguenze della crisi sono sentite soprattutto ai due estremi del ciclo di vita: da una parte i giovani che devono entrare nel mercato del lavoro, che hanno di fronte a loro una situazione molto difficile, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia sta arrivando al 40%, e poi c'è il precariato, cose che sono ben note. Dall'altro lato però abbiamo anche delle persone che sono andate magari in pensione troppo presto, pensando di potersi comunque permettere un'esistenza tranquilla, che hanno investito tutti i loro averi in una casa, questa casa un po' si è deprezzata, poi è aumentata la tassazione degli immobili inevitabilmente nell'aggiustamento fiscale in corso, e si trovano oggi ad avere delle difficoltà a arrivare alla fine del mese. Magari hanno un patrimonio anche immobiliare non indifferente, ma non hanno soldi per arrivare a pagarsi le spese fino alla fine del mese. Quindi sono temi molto importanti, credo, quelli di cui trattiamo a questo festival. Beh, spesso raccontiamo come questa crisi si stia scaricando proprio sulle fasce più deboli. Lei ricordava chi è uscito, sta uscendo dal ciclo del lavoro, ma anche e soprattutto i giovani. 1 milione i posti di lavoro persi dai giovani nel triennio 2008-2011, con dei dati che purtroppo vedono l'Italia primeggiare. Mi riferisco ai cosiddetti NEET, Not in Education, Employment or Training, cioè chi non sta facendo niente, non sta studiando, non si sta formando o riformando, ne sta lavorando. Sono 2 milioni e 100 in Italia tra i 15 e i 29 anni, è la quota più alta in Europa, e devo dire che dopo la Spagna, purtroppo, come già lei accennava, noi abbiamo anche la quota più alta tra i paesi nostri simili di disoccupati giovani. La Spagna batte tutti con il 51% di disoccupati tra cioè sotto i 25 anni, noi arriviamo però al 36%. Però appunto la differenza tra di noi e la Spagna ha anche un tasso di disoccupazione generale che è attorno al 25%, esatto. Quindi quello dei giovani è il doppio, mentre da noi è quasi quattro volte. Cioè da noi si scarica di più sui giovani che non in Spagna, anche se in Spagna ci sono più disoccupati giovani rispetto all'Italia. Solo per dare un esempio, in Italia i disoccupati giovani sotto i 25 anni sono il 36%, in Germania sono l'8%, in Francia diciamo che sono il 20%, in Gran Bretagna il 22%, cioè una soglia normale dovrebbe essere 20-22%, cioè il doppio della disoccupazione media, invece noi siamo a quasi quattro volte. Come spiegherà anche oggi Christopher Pissarides nella lezione inaugurale, c'è una tendenza normale che durante le recessioni sia soprattutto la disoccupazione giovanile ad aumentare, perché sono quelle fasce per cui c'è più volatilità nell'occupazione, ma certo. Il problema è che ci sono alcuni casi come quello italiano che sono di patologia, direi, molto più seri. Sì, appunto, un rapporto tra virgolette normale dovrebbe essere il doppio della media e non quattro volte la media. Tra l'altro noi abbiamo anche dei dati, e qui vorrei parlare dell'ascensore sociale. L'ascensore sociale è quella cosa che permette al figlio di un operaio di diventare laureato e di aumentare, diciamo, oltre che il reddito, anche il suo stato sociale. E questo è un ascensore che si è un po' bloccato, cioè dal piano terra difficilmente arriva all'ultimo piano, o ci arriva con maggiore difficoltà. Pensate che solo il 12% dei figli di operai in Italia si laurea, contro il 40% dei figli di chi ha già un titolo di studio, chiamiamole classi più alte per usare un termine comprensibile, e solo l'8,5% di chi ha un padre operaio ha una possibilità di diventare dirigente o manager. Allora, a noi era sembrato che dagli anni 60, anzi soprattutto dagli anni 60 fino agli anni 90, questo ascensore sociale in Italia funzionasse abbastanza bene, cioè c'era stato un salto, si è tutto un po' fermato. Come mai? Perché la crisi riporta tutti a delimitare il territorio? Ma negli anni 60-70 l'economia italiana cresceva ancora dei tassi sostenuti, e quando l'economia cresce, come spiegherà tra l'altro Piketty nella sua lezione sabato sera, diciamo i meccanismi di trasferimento ereditario diventano in qualche modo meno importanti nell'accumulazione di ricchezza. Quando invece l'economia è in stagnazione o addirittura diminuisce, i passaggi ereditari sono molto più importanti. Quindi questo spiega perché la situazione è peggiorata. Poi ci sono comunque degli aspetti strutturali dell'economia italiana dove il familismo, i rapporti familiari contano ancora tantissimo nell'accesso al mercato del lavoro. Tra l'altro su questo aspetto è in corso un'indagine proprio sul sito del festival www.festivaldelleconomia.it, curata dal laboratorio di economia sperimentale dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che proprio vuole cercare di capire quali sono i rapporti tra generazioni nell'ingresso nel mercato del lavoro, nella trasmissione delle professioni e anche nella condivisione delle responsabilità familiari. Quindi inviterei tutti gli ascoltatori a qualsiasi età a riempire, a rispondere al questionario, porta via circa 10 minuti, ovviamente è gratuito, e i risultati verranno ripresi nel festival in diversi dibattiti, nei pro e contro in particolare che si tengono ogni giorno. L'altro aspetto che emerge con forza ogni volta che parliamo della mobilità, perché qui non stiamo parlando solo dei giovani, stiamo parlando, ricordo il titolo della settima edizione del festival, è cicli di vita e rapporti fra generazioni, non è solo il problema vedo anche i messaggi al 349-238-6666, non è solo il problema di quanto la crisi si stia scaricando sui giovani, ma del rapporto che hanno i giovani con le altre generazioni. Dicevo, su questo, oltre ad avere un ascensore sociale bloccato, per cui si tende di più a fare il lavoro dei padri o a non poter fare altri lavori rispetto a quello dei padri, abbiamo anche un problema di passaggio generazionale tout court, nel senso che noi abbiamo la classe dirigente che è la più vecchia d'Europa, 59 anni in media, con punte di 67 anni se andiamo a prendere l'età degli amministratori delegati e dei presidenti delle banche, 63 anni per i professori universitari, 57 anni per i senatori e i direttori generali della pubblica amministrazione, 54 anni in media per i deputati, e questo è il dato più vecchio, diciamo la classe più vecchia che c'è in Europa. Allora, le chiedo, non sarà che oltre a una crisi che porta a mantenere il territorio, noi ci troviamo di fronte a quella che una volta veniva battezzata una gerontocrazia, cioè una difficoltà della precedente classe dirigente nel, non dico farsi da parte perché sarebbe anche sbagliato, ma semplicemente cooptare e preparare la sua successione. Lo vediamo nella politica che ha lo sbando senza futuri leader. Ma lo vediamo anche spesso quando andiamo a analizzare le grandi aziende, le banche, le grandi imprese. Ricordava il caso dell'università, chiaramente. Delle grandi banche, di cui ha parlato anche oggi Visco. Tra l'altro si dice spesso che è difficile entrare ai giovani perché ci sono pochi posti. Nel caso delle banche abbiamo, come ricordava Visco, dei consigli di amministrazione davvero con dei numeri altissimi di amministratori, credo a seguito soprattutto del ruolo che in essi giocano le fondazioni bancarie. Ecco, nonostante questo i giovani non hanno spazio in questi ambiti. Qui c'è sicuramente un aspetto culturale, ma c'è proprio chiaramente i meccanismi proprio di formazione e di cooptazione della classe dirigente, c'è poca competizione. Pensiamo alla classe politica, ma anche chiaramente parlavamo degli accademici. Qui i concorsi per entrare in università spesso sono dei concorsi che sappiamo bene, non premiano il merito. Tra l'altro è in corso un tentativo di superare i concorsi nazionali che erano previsti dalla riforma universitaria, si vorrebbe tornare ai concorsi locali, e questo temo che porterà ulteriormente a peggiorare la situazione. Ecco, però c'è forse un tratto che esce quasi dall'economia in senso stretto per entrare in quello che è l'analisi culturale dell'Italia, quindi più anche sociologica, perché noi notiamo una difficoltà vera e propria delle classi già affermate, io non voglio dire anziani perché l'età anagrafica mi interessa poco, ma di chi è già da tempo a credere quasi nei giovani. Allora, al di là degli slogan, io non penso che giovane sia bello, né che giovane sia brutto, uno se è mona da giovane è mona anche da vecchio, purtroppo, al massimo migliora. Però, e quindi non c'è un virtuosismo a prescindere solo per il fatto che sei più giovane, Però obiettivamente c'è una resistenza in questo paese. Allora lei la trova come tratto culturale? C'ha ragione chi dice questo non è un paese per giovani, è un paese solo per vecchi? Oppure stiamo esagerando? No, sicuramente c'è una cultura generale che vede la famiglia come centrale in qualsiasi futuro che si possa dare ai giovani e in cui vede il rapporto come un rapporto di tipo dinastico, per cui le famiglie italiane pensano ai loro figli, ma non pensano ai figli degli altri e non pensano ai giovani in generale. E poi c'è questa idea che non bisogna mai delegare posizioni di potere ad altri, c'è una resistenza molto forte nella classe imprenditoriale italiana a farlo, anche quando si assumono dei manager, spesso sono dei manager che sono dei meri esecutori. Tra l'altro alcuni testamentari, perché proprio regolano il passaggio da una generazione all'altra, anziché delle persone a cui si delegano effettivamente delle responsabilità. Ecco, voglio essere chiaro su questo, non è solo un problema di chi ha l'impresa o di chi fa passaggi, diciamo, di testimone ad altissimo livello, vale anche per le categorie che hanno avuto molta resistenza da aprirsi. La licenza di farmacista viene passata dal figlio in Italia senza bisogno che il figlio sia laureato per i primi 5 anni. La licenza di taxi, adesso farò arrabbiare i tassisti, spesso viene vista come una cosa da passaggio ereditario che poi puoi dare alla famiglia. Cioè le licenze stesse, quindi per non andare solo sulla parte, diciamo, molto alta, vengono viste come un mantenimento, diciamo, di quello che è la professione familiare. L'ultima domanda che ho per lei, però, professor Boeri, è voluto mettere una provocazione. Quanto vecchi sono i nostri giovani? Perché quando poi noi vediamo che a fronte di una, diciamo, una gerontocrazia, una resistenza di chi ha già il potere a qualunque livello a mollarlo, a far entrare i giovani, vediamo che però anche negli ultimi tempi abbiamo visto i giovani manifestare assieme ai pensionati per un mantenimento, diciamo, di un posto fisso, di un'idea, di un modello di lavoro che purtroppo non c'è più, si sta lentamente, anzi velocemente sgretolando. Ecco, a me ha fatto molto impressione vedere che i giovani sfilassero accanto ai pensionati, al di là di come la crisi stia colpendo, al di là del fatto che siano le due categorie più su cui più si è scaricata. Non sono un po' vecchi anche i nostri giovani? Beh, innanzitutto non è sempre così, perché io ho visto anche moltissime invece dimostrazioni di interesse da parte dei giovani. Ho girato molto le scuole, anche le scuole secondarie quest'inverno, e lì c'è davvero una grandissima preoccupazione per il loro futuro professionale, una consapevolezza del fatto che per loro le regole sono diverse di quelle dei loro genitori e che quindi bisogna che facciano qualcosa per loro stessi. Ma certamente ci sono anche quelli che pensano a tutelare le pensioni dei loro genitori. È un atteggiamento per certi aspetti comprensibile, perché in un sistema di protezione sociale che dà in qualche modo delle tutele ai giovani solo in quanto membri di una famiglia, ricordiamoci che in Italia quello che è successo durante la recessione è che il trend di lungo periodo, la riduzione della dimensione del nucleo familiare, si è interrotto perché molti giovani sono rientrati nelle loro famiglie, era l'unico modo per loro per avere un reddito. Allora a quel punto è chiaro che quell'unico reddito che viene dalla famiglia, che magari è del genitore che è in pensione, viene tenuto e viene considerato come qualcosa da tutelare a tutti i costi, anche se poi nel trasferimento intergenerazionale avere pensioni più generose vuol dire per i giovani avere più difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, ma all'interno della famiglia è comprensibile un atteggiamento di questo tipo. Tra poco avremo ospite, il ministro Fornero vuole chiedere qualcosa, che giriamo volentieri la domanda. Ma credo che sarebbe interessante che anche lei guardasse agli esiti di questa indagine che stiamo facendo sul mercato del lavoro, perché in quella indagine si ponevano una serie di questioni sull'ingresso nel mercato del lavoro, sul tipo di contratti che i giovani pensano siano più rispondenti alle loro esigenze, sulla necessità di creare di dare fin da subito dei contratti a tempo indeterminato. Ecco, purtroppo questo non l'ho ritrovato nelle azioni del governo e magari appunto sarebbe stato interessante confrontarsi su questi aspetti. Allora, grazie intanto al professor Tito Boeri. Io ricordo che in questi giorni a Trento gli studi di Radio 24 sono qui a Piazza Pasi, dietro il Duomo di Trento. Vi saranno 3 Nobel per l'economia: Christopher Pissarides, Dale Mortensen, Eric Maskin, ma anche arriverà domani Boeri, George Soros, se non ricordo male. Sì, parlerà sabato. E parlerà sabato il più grande, diciamo, considerato il più grande speculatore da un lato, benefattore dall'altro, ma soprattutto che ci ha sempre azzeccato quando ha fatto un investimento molto critico nei confronti della Germania. Ma questo ci porterebbe lontano. E poi il ministro Elsa Fornero, il ministro Corrado Passera e anche il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e il segretario CGIL Susanna Camusso. Grazie ancora a Tito Boeri. Grazie a voi. E adesso però la borsa e poi la relazione, le considerazioni finali, come si chiamano per essere corretti, del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e poi, tutto confermato, nostra ospite, il ministro Fornero. Allora la borsa. Borse che erano partite bene, poi i dati americani hanno raffreddato tutte le attese, un PIL rivisto al ribasso nei primi tre mesi in America, anche alcune dichiarazioni dell'agenzia di rating Fitch che ha detto sono alte sostanzialmente le possibilità che la Grecia esca dall'euro, però poi nel finale la perdita è molto contenuta, a Milano meno 0,14%, a Parigi chiude invariata, meno 0,30% invece Francoforte, quindi sostanzialmente una buona partenza, poi una correzione con un meno 1% e poi però un finale in cui ha recuperato quasi tutto. Da noi tiene banco la vicenda Snam e Rete Gas, più 4,15%, entrambi i titoli vanno bene, è venuto fuori un prezzo più alto rispetto a quello di mercato, Snam guadagna il 4,15%, ma dicevo anche Eni bene, più 1,70%. Allora colleghiamoci subito con Ceo Condi a Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera Ceo. Ciao, buonasera a voi. Dicevamo Snam. Sì, Snam c'era da aspettarselo un balzo di questo genere, visto che nell'operazione annunciata ieri a mercati chiusi, a seguito dei consigli di amministrazione di Eni e di CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, che è poi l'acquirente del 29% di Snam, appunto la società che gestisce la rete del gas in Italia, era stata valorizzata a un prezzo nettamente superiore rispetto a quello che era il prezzo di borsa, quindi oggi fondamentalmente gli operatori si sono adeguati a queste quotazioni. Attenzione, comunque segnalano anche alcuni esperti a non considerare queste quotazioni come definitive, perché ricordiamo che nei prossimi mesi Eni dovrà mettere sul mercato oltre il 20% di Snam, che è la quota che gli resterà dopo la cessione a CDP, quindi questo significa un forte flusso di azioni sul mercato e delle quotazioni che potrebbero anche scendere. E certo, essendoci una larga offerta, le banche oggi hanno risentito più che delle parole del governatore della Banca d'Italia Visco, del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il quale ha ribadito il concetto che la banca è disposta a intervenire, o meglio, vede con favore un intervento diretto del Fondo Salva Stati per ricapitalizzare le banche dei vari stati, quindi diventerebbe un fondo di ultima istanza, di ultima garanzia per le banche dei vari stati. Popolare Emilia Romagna più 3,32%, Monte dei Paschi più 1,26%, Pop Milano più 0,60%, Ubibanca più 0,45%, Unicredito più 0,40%. Tra l'altro pochi istanti fa è arrivata la notizia che si è dimesso Massimo Ponzellini anche dalla carica di presidente di Impregilo, il titolo ha chiuso con un guadagno del 2,53%, banche e Impregilo. Le banche, come hai detto giustamente tu, anche ieri si erano salvate in parte dai ribassi grazie appunto all'ipotesi che questo fondo salva stati, che poi però ricordiamolo è tutto da fare, i soldi sono ancora tutti praticamente da mettere, possa intervenire direttamente nel capitale appunto delle banche. Oggi poi appunto si era visto ieri anche sull'Impregilo, comunque oggi ha recuperato, si è tornati comunque a operatori preoccupati da un rallentamento dell'economia, da un ciclo economico che comunque sconta una recessione ormai evidente, perlomeno in Italia, ma anche in Francia e in Gran Bretagna, e quindi i titoli industriali, i titoli più legati a un andamento ciclico dell'economia, vedi anche le utility, sono stati pesantemente penalizzati. Ancora, per quello che riguarda altri due titoli, vorrei commentare con te. Da un lato, A2A meno 4,80%, Enel Green Power meno 4,30%, Tenaris meno 3,30%, e oggi vanno male tutti i titoli legati al ciclo economico, anche Buzzi Unice meno 2,38%, tra le banche il Banco Popolare perde l'1,5%, però vorrei commentare soprattutto da un lato Fiat, perché era la peggiore per buona parte della seduta, meno 3,21% nel finale, e anche Mediaset, che inizia a essere ai minimi storici come valore del titolo, perché il titolo vale l'1,29%, meno 2,86%, vale l'1,29 meno 2,86% oggi. Sì, Mediaset è oggi ai minimi storici, li sta aggiornando da un po' di tempo, ma è una società che negli ultimi mesi ha perso veramente tantissimo della sua capitalizzazione. Il dato di fatto di oggi sono le dichiarazioni di Fedele Confalonieri, che ha detto che il mercato pubblicitario di giugno non è andato bene, ovviamente di giugno, perché gli spazi pubblicitari vengono venduti di solito in anticipo, quindi questa è un'indicazione che purtroppo accomuna molti media e insomma il titolo è stato penalizzato in borsa. Per quanto riguarda la Fiat, ancora una volta oggi il settore auto in Europa è andato molto male, lo stocks di settore è arrivato a perdere quasi il 2% e Fiat, poi insomma l'industria auto, cosa non c'è di ciclico come l'industria dell'auto? Anche oggi ha pagato dazio, insomma. Allora, ancora per quello che riguarda i titoli, diamo anche i migliori e i peggiori in assoluto oggi sul mercato. Gabetti più 26,20%, e Lazio più 16,40%, IKF meno 15,95%, e il peggiore Prema Finanziaria meno 9%. Mi sembra che IT Way meno 8,15%. Grazie a Ciao Conner, Radio Cori, il Sole. Grazie a voi. 24 ore, una risposta agli ascoltatori sugli SMS, visto che qui dagli studi di Trento riusciamo a gestire anche questo. Molti sul tema del chiaramente della 4 giorni di Trento sul passaggio generazionale. L'America, forse quelli erano gli indici che non ho dato, anzi sicuramente non ho dato come ultimo aggiornamento. Dow Jones meno 0,40%, Nasdaq meno 0,80%, euro a quota 1,2354. Le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alle sue prime considerazioni finali, ha detto: attenzione alla ripresa e l'uscita dalla crisi sarà molto molto lenta, ma ha fatto anche quella che alcuni hanno definito un'ultima chiamata per l'Europa. E allora sentiamo Visco sia sullo scenario economico. Addirittura nel 2012 la recessione sarà pesante in Italia, non più meno 0,9, meno 1, meno 1,5% prevede la Banca d'Italia, che aggiunge se lo scenario sarà buono. In scenari non troppo sfavorevoli la caduta del prodotto può essere contenuta intorno all'1,5%. Una ripresa potrà affiorare verso la fine dell'anno con probabilità tanto maggiore quanto più saranno efficaci gli interventi strutturali volti a migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche e private, quanto più chiara e decisa sarà la coesione mostrata dall'Unione Europea. E attenzione, perché il governo stima un calo del PIL, una recessione quest'anno dell'1,2%, la Banca d'Italia dice se tutto va bene, cioè se le condizioni non sono troppo sfavorevoli, tra l'1,5% e il 2%, insomma, io inizierei un po' a preoccuparmi. Ma c'è un altro passaggio che vorrei farvi sentire, quando il governatore della Banca d'Italia dice che il peso delle tasse in questo paese è incompatibile con una crescita sostenuta. Secondo le previsioni correnti, il disavanzo pubblico sarà quest'anno ben al di sotto del limite del 3%. L'anno prossimo sarà vicino al pareggio strutturale e il debito pubblico inizierà a scendere nel rapporto al PIL, grazie anche al completamento della riforma previdenziale. Il saldo primario è in forte e crescente avanzo. La spesa corrente, diversa dagli interessi, diminuisce in termini reali da 2 anni. Si è però pagato il prezzo di un innalzamento della pressione fiscale a livelli ormai non compatibili con una crescita sostenuta. L'inasprimento non può che essere temporaneo. La sfida si sposta, occorre trovare, oltre a più ampi recuperi di evasione, tagli di spesa che compensino il necessario ridimensionamento del peso fiscale. Se accuratamente identificati e ispirati ai criteri di equità, i tagli non comprometteranno la crescita, potranno concorrere a stimolarla se saranno volti a rimuovere inefficienze dell'azione pubblica, semplificare i processi decisionali, contenere gli oneri amministrativi. I margini disponibili per ridurre il debito, anche con la dismissione dell'attività in mano pubblica, vanno utilizzati pienamente. E poi l'elogio al suo ex capo, possiamo dirla così, Mario Draghi. Infatti prima di arrivare alla BCE, come molti di voi ricorderanno, era governatore proprio della Banca d'Italia. Ha detto Ignazio Visco: bene si è mossa la Banca Centrale Europea per evitare effetti peggiori di quelli già pesanti visti, ha messo a disposizione oltre 1.000 miliardi di euro di liquidità per le banche europee, ma adesso se vogliamo salvare l'Europa deve agire la politica. Poi ha detto che non è corretta la critica al mondo bancario, le banche sostengono l'economia, ha però invitato le banche a utilizzare più capitale di rischio e quindi ad avere un altro rapporto con le imprese. E però sempre sulle banche la bacchettata del governatore non è arrivata per il loro rapporto, per la loro diciamo scarsa propensione a concedere credito, ma per il modello di governance, cioè per come sono organizzate e gestite al loro interno. Sentite questo passaggio in cui bacchetta proprio i consigli di amministrazione numerosissimi, pletorici, i gettoni sono belli pesanti quando ti siedi in un consiglio, sentiamo. Sono necessari interventi incisivi dal lato dei costi operativi, la cui flessibilità è modesta in relazione alle condizioni di fondo del settore. L'attuale livello del costo del lavoro è difficilmente compatibile con le prospettive di crescita del sistema bancario italiano. Anche le remunerazioni degli amministratori e dell'alta dirigenza devono essere indirizzate all'obiettivo del contenimento dei costi. Strategie ambiziose devono essere volte ad aumentare significativamente l'efficienza dei processi produttivi e distributivi, a valorizzare il contributo delle nuove tecnologie. Alle aggregazioni tra banche non hanno fatto seguito snellimenti incisivi dell'articolazione societaria dei gruppi e una riduzione nel numero dei componenti degli organi amministrativi. I primi 10 gruppi contano complessivamente 1.136 cariche, escludendo le società estere, oltre 700 per le sole banche controllate. Anche tra gli altri intermediari si osservano spesso composizioni pletoriche, che deresponsabilizzano i singoli consiglieri e si riflettono negativamente sulla funzionalità degli organi collegiali. Questi assetti sono di per sé costosi e non giustificati dalle competenze professionali necessarie all'efficace gestione del gruppo e della banca. Il recente divieto di tenere cariche incrociate tra imprese del settore finanziario è un'occasione per intervenire sulla numerosità dei consigli d'amministrazione. Oh, lo dico se non fosse stato chiaro, siete troppi in quei consigli di amministrazione e da un lato, e dall'altro attenzione perché costate tanto e siete poco efficienti. Il messaggio non è il mio, ma è il messaggio del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ai consiglieri di amministrazione delle banche che, ripeto, hanno gettoni di non poca presenza, adesso di non poca consistenza. Tra poco il ministro Fornero nostro ospite. Vorrei però concludere l'approfondimento per quello che riguarda la relazione, o meglio le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, con un passaggio che poi ci permette di andare al prossimo tema, quello della riforma del mercato del lavoro, il passaggio in cui Visco ha citato in maniera molto esplicita quelle che sono i timori e le difficoltà anche dei giovani, di chi, ovvero di chi sta subendo più di altri, lo ricordavamo prima, 4 volte superiore la disoccupazione tra i giovani sotto i 25 anni rispetto alla media del paese, mentre in altri paesi la disoccupazione dei giovani è al massimo il doppio rispetto alla media nazionale. Visco sui giovani. Tirarci fuori dallo stretto passaggio che attraversiamo impone costi a tutti. Sono costi sopportabili se ripartiti equamente con una meta chiara. Il percorso non sarà breve. Ma la società italiana non può non confrontarsi con un mondo cambiato, che non concede rendite di posizione. Al tempo stesso, la politica deve assicurare la prospettiva di un rinnovamento profondo che coltivi la speranza, vada incontro ai giovani. Alcune delle reazioni alle parole del governatore della Banca d'Italia, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Siamo assolutamente in linea. Mi sembrava in certi punti di rileggere il mio discorso di giovedì scorso, quindi vuol dire che c'è una vera condivisione sui problemi dell'economia reale. Non sarà facile, noi imprenditori dovremo mettercela tutta, siamo pronti e lo faremo, però abbiamo bisogno anche di un sistema paese che ci sostenga. Il governatore ha toccato quella che io avevo definito nel mio discorso la madre di tutte le riforme, che è la semplificazione normativa burocratica del paese. E poi il presidente dell'ABI, delle banche italiane, quindi Giuseppe Mussari, che ha condiviso l'invito di Visco a ridurre il numero dei consiglieri di amministrazione, troppi, troppo cari, troppo pletorici, si scaricano le responsabilità e anche gli stipendi dei banchieri, vista la situazione. Musseri. Una relazione completa, complessa e di altissimo livello. È un insieme completo, è un'analisi che parla dell'Italia e delle sue banche, ma parla dell'Italia rispetto all'equilibrio necessario di una comunità che si chiama Comunità Europea. Ma ci sono anche altri inviti alle banche a fare meglio sui costi, sull'efficienza, sull'innovazione. La relazione ha una complessità molto, molto maggiore che un normale piano industriale per una banca. Credo che siamo in un momento di assoluta volatilità, la qualità degli attivi delle banche italiane oggi è confermata anche rispetto agli attivi creditizi, la loro stabilità patrimoniale è confermata, se non si risolvono alcune delle inefficienze a cui anche la relazione fa riferimento, temo che questa situazione di volatilità possa continuare ad essere. E poi invece la riforma del mercato del lavoro, quindi veniamo all'Italia. Oggi è arrivato l'ok del Senato al DDL Lavoro, il primo commento è stato quello del Presidente del Consiglio Mario Monti, che l'ha definita una riforma di profonda struttura che ha avuto anche via libera dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. È una riforma di profonda struttura. È una riforma che è stata, come è normale, accompagnata in Italia da dibattiti intensi, da diverse prese di posizione. Io credo che il governo debba guardare soprattutto la valutazione che da organismi imparziali e che hanno sotto mano le diverse economie nazionali è stata data, e da ultimo ieri la Commissione Europea, ma anche l'OCSE e il Fondo Monetario hanno sottolineato l'importanza di questa riforma del mercato del lavoro che il Senato oggi ha approvato e che va vista nel contesto delle diverse riforme, a cominciare da quella delle pensioni e alle altre che in questi mesi il Parlamento, su proposta del Governo, ha approvato. Poi sempre il Presidente del Consiglio sulle critiche che sono arrivate anche dalla Confindustria, anche dagli industriali, l'ultima ricorderete è quella del neo Presidente di Confindustria Squinzi, che nella sua relazione, la sua prima relazione, ha detto non è la riforma che avremmo voluto. Su questo di nuovo il Presidente del Consiglio Mario Monti. Questo è stato uno degli obiettivi essenziali della riforma, ma è anche uno degli obiettivi tra i principalissimi della nostra attività di governo. Non è facile in un momento di restrizioni e ancora di situazione economica e finanziaria internazionale grave dare fiducia, ma io voglio che i giovani sentano che l'Italia è governata e che l'Italia è governata non per cercare il plauso delle diverse categorie, ma per fare il bene dei giovani. Così appunto il Presidente del Consiglio Mario Monti, e siamo in collegamento per parlare anche della riforma delle pensioni, oggi appunto approvata dal Senato, con il Ministro al Welfare Elsa Fornero. Ministro, buonasera. Buonasera. Ma lei voleva dire riforma delle pensioni o del lavoro? E del lavoro, mi scusi, non delle pensioni, ci mancherebbe, ma mi sta già bacchettando, Ministro, dobbiamo ancora iniziare l'intervista. Sì. Vabbè. Allora, no, lei esco adesso da una riunione con i sindacati. Ah, quindi è quindi nervosa? No. Allora, abbiamo un po' di ritorno di cuffia, purtroppo, Ministro, perché siamo a Trento, quindi farò più attenzione anch'io. Lei è stata nostro ospite molte volte negli anni passati come appunto studiosa del mercato del lavoro. Oggi, dicevo, al Senato è approvata la riforma del mercato del lavoro. Mi dà una prima battuta sugli esodati, poi dopo il traffico le chiederò anche alcuni dettagli e anche un suo intervento su quello che è successo in Emilia, visto che lei appunto è anche ministro del lavoro inteso come sicurezza sui luoghi del lavoro. Però sugli esodati la sensazione che abbiamo ricevuto, Ministro, lei molte volte è intervenuta, non è tanto che, voglio dire, il governo non se ne sia occupato, ma che sia stato un po' sottovalutato il problema, cioè prima 65.000, adesso scopriamo che forse sono il doppio. Non bastava dire abbiamo sbagliato, adesso ci metteremo mano? No, io non credo che abbiamo sbagliato, credo che ci siano diverse tipologie di persone che entrano in questo termine, che peraltro è un termine, diciamo, giornalistico, noi non abbiamo mai chiamato, abbiamo detto ci sono persone che noi intendiamo salvaguardare rispetto all'inasprimento dei requisiti previdenziali. E queste persone erano state stimate dall'INPS, validate nel numero dalla Ragioneria Generale, e per queste persone si erano appostate, come si dice in gergo, delle risorse. Quindi si è detto c'è un certo numero di persone che dovrà essere salvaguardato dall'inasprimento. In effetti poi il Parlamento da un lato ha aumentato la platea, dall'altra parte noi avevamo sempre in mente di non salvaguardare tutte le persone appartenenti a quella categoria, e in più ci sono molte mobilità, molti abbandoni di lavoro che sono difficili da monitorare. Allora, abbiamo capito in corso d'opera che il numero è più alto di quello che avevamo inizialmente preventivato, e quindi diremo che, fra l'altro, non si tratta, lo voglio dire, di persone che vanno in pensione nell'anno prossimo o nell'anno 2014, ma di persone che potranno andare o avrebbero potuto andare in pensione negli anni ancora dopo. Questo faremo una stima che non è così facile a farsi, io ne ho parlato molte volte con l'INPS, mi spiace, le cifre anche stravaganti che sono venute fuori, non sono venute fuori in via ufficiale dal Ministero, qualche volta le fonti sono le più diverse e non spetta al Ministero né criticare né dire queste cifre sono sbagliate, perché fino a che non sono ufficiali noi interveniamo. Cioè, lei dice poteva stare anche un po' più zitta l'INPS, perché alcune cifre le ha diffuse l'INPS stessa? Beh, lei diciamo che questo è una sua deduzione, io dico che è sempre bene evitare di dare cifre fino a quando non si ha la sicurezza che quelle cifre corrispondono effettivamente a categorie, alle quali categorie corrispondono persone con nome e cognome che noi vogliamo salvaguardare rispetto, come ho detto prima, all'inesprimento dei... Quindi diciamo un po' improvvide le prime stime dell'INPS, questo possiamo dirlo, visto che poi non avete ancora il dato complessivo. E forse sì. La Confindustria, sia con Emma Marcegaglia che con il neo presidente Giorgio Squinzi, con toni forse un po' diversi, ma insomma non ha mai nascosto di essere rimasta delusa da questa riforma delle pensioni su due aspetti principalmente, mi riferisco alla modifica che è arrivata poi sull'articolo 18 e quindi la possibilità di reintegro deciso dal giudice anche sul licenziamento discriminatorio, e poi nel disciplinare se il fatto non sussiste il giudice condanna al reintegro, negli altri casi di legittimità c'è un indennizzo tra i 15 e 27 mensilità, e poi il licenziamento economico, e qui anche qui un po' di tensioni, in alcune situazioni tipizzate per legge il giudice potrà decidere anche il reintegro, oltre che ai contratti in ingresso. Secondo lei sono del tutto infondate le critiche degli industriali che temono un irrigidimento anche in ingresso nel mercato del lavoro? Guardi, io dico questo, che ciascuna parte, se considera solo il suo angolo visuale, tutto sommato ha ragione nel dire che avrebbe potuto ottenere di più. E per esempio le imprese, se consideravano, diciamo, il massimo ottenibile l'abrogazione dell'articolo 18, salvo che per i licenziamenti discriminatori, può essere magari non proprio soddisfatta, perché ha ottenuto una modifica che certo è meno dell'abrogazione. Però questa è una riforma fatta a per far funzionare meglio il mercato del lavoro, ma il mercato non è fatto solo di una parte. è fatto di due parti e il mercato del lavoro riguarda tutte le famiglie, tutte le imprese. Spesso le imprese non hanno tutti gli stessi interessi, i lavoratori non hanno tutti gli stessi interessi, i lavoratori e imprese hanno spesso interessi contrapposti. Allora, quello che il governo si è proposto è di trovare una buona sintesi, una sintesi equilibrata di questi interessi. Io poi penso che, in particolare, visto che lei è andato subito sull'articolo 18, che è uno dei punti, e mentre la riforma è molto vasta, allora io penso che questo modo di esprimere sia anche un po' strano, perché esprime una sostanziale sfiducia nei confronti di una categoria che sono i giudici del lavoro, e io penso che i giudici del lavoro siano come tutte le categorie, ci sono dei bravissimi giudici del lavoro e ci sono dei giudici del lavoro magari meno bravi o più negligenti, così come ci sono degli imprenditori bravissimi che sanno fare molto bene il loro mestiere di imprenditori e di datori di lavoro, e ce ne sono degli altri molto meno bravi che invece vorrebbero soltanto avere contratti a basso costo e magari con tutta la flessibilità sia nell'entrata sia nell'uscita. Ma il mondo non funziona così. Secondo lei la posizione di Confindustria è eccessivamente scettica sulla, diciamo, l'oggettività e l'imparzialità dei giudici del lavoro? Per esempio, questo è sicuramente una implicazione, ma io poi penso che di avere buone argomentazioni per convincere, e spero che sarà così, spero che sarà così anche in tempi brevi, per convincere le imprese che in realtà c'è molto di buono dal loro punto di vista, di imprenditori, di investitori, di datori di lavoro, in questa riforma. Io di questo sono convinta, non è una visione di parte. Non si può pensare che il ministro dell'economia sia contro le imprese, ma che cos'è questo? Cioè, il ministro dell'economia sa bene quanto essenziali siano le imprese, il ministro dell'economia, ma direi tutto il governo, il governo sa bene quanto essenziale sia che le imprese considerino importante stare in questo paese, investire in questo paese, alzare la qualità delle strutture produttive di questo paese, e sicuramente noi operiamo per questo. Mi dica ancora due cose. Intanto vedo molti messaggi a 349-238-6666 che avrebbe voluto da lei invece l'ammissione che sugli esodati non ci avete preso. Io li giro così come li vedo, anche secondo me forse bisognava pensarci un po' prima, Ministro, che arrivare a dire sono 65.000, sono 130.000, sappiate che non è facile, ho capito, ma la riforma del mercato del lavoro mica vi abbiamo obbligato a farla in quei modi, in quei tempi. Per cui se mi vuole tornare su questo. Ma mi dà anche una battuta invece sul terremoto, o meglio sull'aspetto che riguarda i cosiddetti capannoni del terremoto in Emilia, perché lei ha dato una dichiarazione ieri in cui ricordava in altri paesi non succede. A noi è sembrato di notare, non da parte sua ma in generale, anche un po' di critica agli imprenditori emiliani subito tornati a lavorare in una terra che, oltre che essere operosa, vive di distretti in filiera. Se si blocca un distretto si blocca tutta la filiera. Ministro. Comincio allora da questa seconda argomentazione, che in questo momento mi sembra più importante, perché lì ci sono di mezzo vite umane. Non c'era nessuna implicazione polemica di quel tipo lì. Io trovo che il lavoro è importante ed è importante sempre. La mia era una constatazione, cioè tutti abbiamo viaggiato, tutti siamo stati in paesi dove i terremoti, che sono un fenomeno purtroppo un fenomeno naturale, ci sono zone sismiche in molti paesi del mondo, però non è vero che in tutti i paesi le costruzioni cadono con delle scosse di terremoto di questa entità. Questa è una constatazione, dopodiché non c'è nulla di attribuzione di responsabilità e meno che mai attribuzione di responsabilità per fabbriche riaperte. Questo non spetta a me e non spetta, cioè i giudizi tranchant qualche volta vengono fatti, diciamo, non dico da chi, ma non ci lasci con questo dubbio nel finale del programma. Chi è che fa giudizi tranchant? I giudizi tranchant si trovano molto spesso nei titoli dei giornali, nei titoli, insomma, questi sono giudizi che sono tranchant, e invece però le constatazioni e